GR24, il sole 24 ore. Bomba su un autobus a Tel Aviv, 8 feriti, Hamas festeggia, ci felicitiamo. Legge di stabilità al voto di fiducia, Europa, vertice senza esito sugli aiuti alla Grecia. Processo in ottava a Torino, aggredito un cameraman della Rai. Calcio impresa Juve contro il Chelsea e gli inglesi esonerano Di Matteo. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione di GR24. In apertura dunque e naturalmente la situazione in Medio Oriente, gli aggiornamenti in diretta con Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno a te. C'è stato questo attentato a bordo di un autobus a Tel Aviv nel viale Saul el-Mek, in un viale molto centrale davanti a un quartier generale dell'esercito, che ha causato questa mattina almeno 8 feriti. Il governo israeliano e la polizia non hanno dubbi, si sarebbe trattato proprio di un attentato, una bomba che era stata piazzata in una borsa all'interno dell'autobus. D'altra parte Hamas lo aveva annunciato e questa mattina si è detto lieto dell'attentato. L'attentato arriva una settimana dall'inizio dell'offensiva israeliana Colonna di Nuvola, un'operazione che ha già causato oltre 120 morti tra i palestinesi e 5 tra gli israeliani. Continuano anche i raid nella striscia di Gaza. 2 ore fa circa abbiamo sentito Sami Abu Omar, un cooperante di una ONG italiana a Gaza. Sentiamo. Mi trovo al centro di Gaza, sette ore, ci sono i bombardamenti, soprattutto cominciati al sud della striscia di Gaza, confine con l'Egitto, la zona di Rafah. Per questa giornata ci sono, per ora sono 2 vittime, decina di feriti. Avete fiducia in questa sì. missione di Hillary Clinton? La gente non ce la fa più, è la maggior gente. Un bombardamento ora davanti a me, sente il rumore. Ora, questo secondo. Dove? È qui davanti a me, praticamente, sono lontani 200 metri esattamente, praticamente. Una casa, un appartamento. La zona si chiama El Saraya, la zona. Lì davanti allo stadio palestinese, lo stadio olimpico palestinese, praticamente lì, proprio lì, allo stadio. E l'avete sentito, la testimonianza era di 2 ore fa circa, quando è stata colpita questa abitazione vicino allo stadio a Gaza City, ma l'attentato di Tel Aviv ha messo ora una pesante ipoteca anche sui tentativi della diplomazia internazionale di arrivare a un accordo di tregua tra Israele e Hamas. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ali Lariani ha ammesso che l'appoggio di Teheran a Gaza è anche militare, ha parlato anche la guida suprema iraniana Khamenei, ha condannato la selvaggia azione dello Stato ebraico e ha esortato i paesi a sostenere i palestinesi. Un momento delicato, tra l'altro Ban Ki-moon, il segretario dell'ONU, e il segretario di Stato americano Hillary Clinton si trovano nella regione, fanno la spola fra le diverse città medio orientali per trovare una soluzione, almeno una tregua, ed è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. Noi passiamo alle cose italiane, poi quando ci saranno aggiornamenti naturalmente sulla situazione in Medio Oriente ve li daremo. Passiamo alle cose italiane per parlare della legge di stabilità, che è la prova del voto di fiducia, mentre il sottosegretario Polillo parla della possibilità che l'IVA non venga alzata. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Legge di stabilità, le battute finali, 3 voti di fiducia sui quali è impegnata l'aula di Montecitorio, corrispondente ai 3 articoli in cui il provvedimento è stato suddiviso. Il primo dovrebbe arrivare a minuti, gli altri 2 nel pomeriggio, mentre domani mattina ci sarà il voto sugli ordini del giorno e quello finale sul provvedimento. Un testo che è stato completamente rivisto dal Parlamento rispetto all'impostazione originaria del governo, ma che presenta ancora alcune questioni irrisolte che verranno a questo punto affrontate dal Senato, dall'indicizzazione delle pensioni di guerra reversibili, cioè quelle che ricevono i parenti dei soldati deceduti nelle missioni di pace, su cui tutti i partiti hanno sottoscritto un ordine del giorno. Altro punto da riscrivere, la Tobin Tax e la deroga al patto di stabilità interno per i comuni colpiti dalle alluvioni, sostenuta da tutti i gruppi, ma su cui va trovata la copertura. E intanto il sottosegretario all'economia Polillo chiarisce che per quanto riguarda l'aumento dell'IVA a luglio 2013, questa è una eventualità, non una certezza, e che 4 miliardi di euro, pari al valore dell'eventuale incremento dell'aliquota, possono essere reperiti dalla spending review. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E fuori dal Ministero dell'Economia hanno protestato oggi i malati di SLA. Senza risposte ci lasceremo morire, dicono, chiedendo l'incremento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza fino ad almeno 400 milioni di euro. Sempre la nostra Alessandra Schepisi ha intervistato la vicepresidente del Comitato 16 Novembre, Mariangela Lamanna. stanziare 200 milioni di euro per far fronte alle necessità dei disabili gravissimi è veramente un'inezia che non può essere accettata. Significa dare con 200 milioni di euro 600 euro per ciascuna famiglia ove risieda un disabile gravissimo, a fronte di spese di gestione per il solo ammalato di almeno 3.000 euro al mese, quindi inaccettabile davvero. Poi il resto della famiglia che fa? Non mangia, non paga le bollette, non si veste, non si nutre, non fa nulla. Cioè un malato di questi costa in una residenza sanitaria dai 70 ai 90 mila euro l'anno. Noi chiediamo di raddoppiare questo intervento per la non autosufficienza, che è stato di 200 milioni, ne vogliamo almeno 400, il che significa dare per ciascuna famiglia ove risieda un disabile gravissimo 16.000 euro, che ci sembra il minimo indispensabile per andare avanti. Veniamo alla situazione in Europa, dopo il negoziato notturno sulla Grecia, che si è chiuso con un nulla di fatto. È al telefono con noi il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Beda, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, innanzitutto ti chiediamo la cronaca di questa nottata. Ma è stata una nottata di trattative, cominciata alle circa le 5 del pomeriggio, terminata alle 4 della mattina. Sono trattative che non sono andate a buon fine. La riunione è stata interrotta alle 4 del mattino, verrà ripresa lunedì prossimo. Qual era il nodo del contendere? L'Eurogruppo doveva mettersi d'accordo fondamentalmente per un nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia. Questo era l'obiettivo della trattativa. I governi sono tendenzialmente d'accordo nel dare 2 anni in più alla Grecia per raggiungere i suoi obiettivi di bilancio dal 2014 al 2016. Evidentemente questo spostamento in avanti provoca un buco nelle finanze pubbliche del paese mediterraneo. I paesi, quindi creditori, devono trovare soldi freschi, sì, per cercare di limitare la fattura dei governi nazionali. Si sta discutendo di una riduzione del debito pubblico. Beda, Beda, i francesi dicono che l'accordo è vicinissimo. La stessa Merkel poco fa ha detto che lunedì si dovrebbe raggiungere. Da questo punto di vista ti sembra di poter essere ottimista come appunto i governi tedesco e francese? Direi di sì. Il punto è ridurre il debito e come ridurre il debito. Ho l'impressione che ieri, dopo 11 ore di trattative, i problemi fossero soprattutto tecnici. Mi rendo conto perfettamente che i problemi tecnici nascondono anche dei nodi politici, ma l'impressione è che ci fosse la volontà di trovare un accordo, ecco perché la trattativa è durata così a lungo. Grazie dunque a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Mercati continuano complessivamente ad essere poco reattivi a tutto questo, Deborah Rosciani. Sì, in realtà una piccola reazione l'avevamo vista in avvio di seduta con i mercati negativi, poi hanno recuperato tutto quanto e adesso c'è un quadro positivo a Milano che segna più 0,41%, più 0,2% Parigi. Ieri la piazza francese è stata maggiormente sotto i riflettori dopo che Moody's è arrivata a tagliare la AAA al paese, il massimo rating appunto assegnato al debito transalpino. Francoforte più 0,10 e sulla parità Londra in questo momento, per cui aspettiamo indicazioni più chiare da Wall Street per vedere appunto se l'Europa reagirà anche al mercato americano. Ieri va ricordato che il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha riportato l'attenzione in un dibattito pubblico, l'attenzione dei mercati sul pericolo del fiscal cliff, del precipizio fiscale. L'euro torna sopra quota 1,28, sul dollaro lo spread fra BTP e Bund, anche in questo caso tranquillo, siamo intorno ai 350 punti base, un po' al di sotto, per ora è tutto. Grazie dunque a Deborah Rosciani. E adesso un aggiornamento che sta arrivando in questi minuti e che riguarda la politica e soprattutto le primarie del Popolo della Libertà. Come sapete, già in queste ore circolava qualche dubbio sul fatto che alla fine si facessero, pare che qualche parola decisiva possa arrivare. Elisabetta Fiorito da Montecitorio, buongiorno. Sì, proprio così, si aspetta una conferenza stampa, comunque una dichiarazione proprio del leader del PDL, Silvio Berlusconi. Sappiamo che le primarie del partito sono in alto mare da ieri, ci sono molti candidati, molti ritiri, si è ritirata anche Alessandra Mussolini e si parlava di un incontro tra Berlusconi e Alfano e la possibilità anche che queste primarie fossero annullate, proprio perché se si va verso l'election day il 10 marzo, lo ricordiamo, non ci sarebbe proprio tempo per poter svolgere una consultazione dal popolo del centrodestra. Nel frattempo sta parlando Bossi, che dice che in Lombardia la Lega vince con o senza il PDL e per le primarie se la devono vedere loro. Sappiamo che ci sono molte quindi incertezze sul voto, tra poco la dichiarazione di Silvio Berlusconi per far capire se queste primarie del PDL si faranno oppure no. Sappiamo che il Cavaliere è sempre stato contrario. Invece per quanto riguarda le primarie del PD e del centrosinistra, che sono confermate ovviamente per domenica prossima dalle 8 alle 20, Pierluigi Bersani fissa l'obiettivo a 2 milioni di votanti, troppo pochi per Matteo Renzi, perché alle ultime primarie solo del PD avevano votato 3 milioni e 200 mila elettori. Il sindaco di Firenze dice il successo sarà se raggiungeremo i 4 milioni di elettori. Ecco, queste sono attualmente le novità in attesa della dichiarazione di Silvio Berlusconi. A voi studio. Grazie, grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, e di questa vicenda, ossia delle primarie del Popolo della Libertà, parleremo tra poco all'interno di Italia in Controluce. Nel frattempo i candidati ci sono, tra questi c'è Guido Crosetto, che dice le primarie non sono un modo per fare una resa dei conti interna, ma è il momento per fare proposte alternative al governo Monti. I suoi punti programmatici lo ha intervistato Anna Marino. C'è bisogno in questo paese di ripartire da chi produce la ricchezza. La ricchezza viene prodotta dalle aziende. Da 4 milioni e mezzo di partite IVA bisogna ridare la possibilità a queste persone di lavorare, facendo una fiscalità che premi chi ha ancora voglia di investire in aziende, chi ha ancora voglia di dare posti di lavoro, chi ha ancora voglia di fare ricerca, chi ha ancora voglia di mettere su un capannone, di comprare macchinari, perché se io non alimento la parte di produzione di ricchezza, non consento a queste aziende di sopravvivere in questo periodo di difficoltà, è impossibile poi declinare una spesa pubblica che vada a riequilibrare la ricchezza del Paese. Noi adesso ci siamo concentrati esclusivamente, soprattutto questo governo, nel pareggio del bilancio dello Stato, senza renderci conto che facendo questo stavamo mettendo in crisi chi a questo pareggio contribuisce pagando tasse e creando posti di lavoro. Questo è il primo passaggio fondamentale per poter poi dopo declinare una politica statale. Attenzione all'economia reale, quindi ci vogliono anche dei tagli? Assolutamente sì, ma più che altro la spesa pubblica, che stanno dimostrando per primi i tecnici quanto sia difficile e radicata, quindi difficile da essere tagliata, va intanto resa efficiente. Fin quando non portiamo criteri di meritocrazia e mi passi di punizione all'interno della macchina pubblica, difficilmente potremo farla funzionare. Un pronostico sulle primarie, si faranno o non si faranno, quando? Mi sono candidato perché penso, significa che penso che si facciano, poi il quando, il come lo decidono altri. Cambiamo argomento in attesa anche appunto di notizie sulle primarie del PDL. Vi ricordo ancora una volta che alle 13.30 se ne parlerà in Italia in Controluce. Domani è la giornata nazionale di mobilitazione e protesta contro lo stato disperato nel quale versano le carceri italiane. Già oggi e da alcuni giorni sono molte le iniziative e gli interventi in corso. L'oncologo Umberto Veronesi ha scritto un manifesto contro l'ergastolo. I radicali da giorni stanno lanciando una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica e domani gli avvocati penalisti sciopereranno per partecipare alle manifestazioni previste in tutta Italia contro la situazione in cui versano le carceri oggi. A Catania, una cella normale è composta da due letti a castello a quattro piani più un letto a castello a due, ovvero 10 persone in 18 metri quadri. Nella media nazionale abbiamo un tasso di affollamento al 140%. Il provvedimento sulle misure alternative al carcere mi sta molto a cuore e sarà in aula alla Camera martedì, dice il ministro della Giustizia Severino, che oggi è intervenuta su Rai Radio 1. Sentiamo. Impegno fortemente a spiegare questo progetto, a spiegare che esso non crea pericoli per la società, ma determina soltanto uno stato di una possibilità di scontare la pena in condizioni più umane. L'Italia è il paese con le carceri più sovraffollate d'Europa. Nel 2012 si sono suicidati 50 detenuti. Su cosa si deve lavorare? Patrizio Gonella è presidente dell'associazione Antigone. Bisogna intervenire sulla custodia cautelare, perché due detenuti su cinque sono in carcere in attesa di giudizio, e i problemi legati alla legge sulle droghe. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di parlare di fisco e di condominio, altre due notizie all'attenzione di queste ore. Una notizia che vi abbiamo dato nei titoli poco fa: un cameraman della Rai è stato aggredito da alcuni attivisti del movimento No TAV mentre effettuava alcune riprese all'interno dell'aula 46 del Tribunale di Torino, dove si è aperto il processo per gli scontri dell'estate 2011. È stato raggiunto da un pugno al basso ventre e da uno sputo dopo che si è rifiutato di spegnere la telecamera alla richiesta dei manifestanti. E noi torniamo all'economia italiana e a parlare appunto di, come si diceva, di fisco. Ieri, come sapete, è partito il Redditest Test, lo strumento che dovrebbe permettere alle famiglie di verificare la congruità delle proprie spese con il reddito, il tutto in attesa dell'arrivo del nuovo redditometro. Da gennaio non vuole essere uno strumento che terrorizza, dice Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervistato stamattina da Oscar Giannino. Qui bisogna, ci mettiamo un attimo d'accordo, se in Italia c'è un'evasione di massa, 120-130 miliardi l'anno, che negli anni ha creato enormi problemi a questo paese, non ultimo il debito pubblico, ma non solo quello, la competitività, non ha fatto crescere le imprese sane perché è stata falsata la concorrenza e così via. Allora, se abbiamo questo problema, siamo in guerra anche su questo tema, come dice il Presidente Monti. Io poi da cittadino privato, ma solo da cittadino privato, posso anche condividere l'idea che quanto viene recuperato dall'evasione deve essere comunque redistribuito. Non lo posso fare come direttore, non lo posso dire come direttore. Vanno usati tutti gli strumenti che oggi la tecnologia e le metodologie statistiche ci mettono a disposizione. Questo è uno degli strumenti. Non vuole essere questo, io insisto su questo, non vuole essere uno strumento che terrorizza. È uno strumento che forse va usato da chi finora ha evaso, parzialmente o totalmente. È uno strumento per chi evade, non per chi paga regolarmente le imposte. Arrivano nuove regole per il condominio. La riforma del condominio arriva dopo 11 anni di lavori parlamentari e non è proprio una rivoluzione. Però le cose che cambiano sono parecchie. In sintesi, ci saranno nuove responsabilità per l'amministratore, che non potrà più ricevere deleghe, una contabilità trasparente, la possibilità di distaccarsi dal riscaldamento centrale, l'obbligo per i creditori di rivolgersi prima a chi in ritardo con le rate e solo dopo gli altri condomini, la sanzione da 200-800 euro per chi viola il regolamento condominiale, lo stop nei regolamenti assembleari, cioè votati in assemblea, ai divieti di tenere animali domestici, mentre sarà molto difficile considerare nullo il divieto nei regolamenti cosiddetti contrattuali. Il sito web su richiesta dell'Assemblea e una maggiore facilità nel cambiare le tabelle millesimali. Ci sono anche nuove regole per la mediazione, ma di fatto, a causa della bocciatura della Corte Costituzionale, resteranno senza effetto. Il tutto entrerà in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che avverrà tra qualche giorno, quindi orientativamente fine maggio-inizio giugno 2013. Questo periodo servirà per abituarsi alle nuove regole, ma chi ha liti in corso, probabilmente, avrà il giudizio finale dettato in base alla riforma. Saverio Fossati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Francesco Leone, il presunto capo della banda accusata di aver sequestrato Giuseppe Spinelli, tesoriere di Silvio Berlusconi, si è avvalso oggi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Milano. Il punto di Stefano Folli. Era destino che la vicenda politica di Berlusconi non si concludesse in modo normale, con un semplice ritiro dalla scena, come avviene di solito in democrazia. L'oscura, davvero misteriosa storia che riguarda il suo uomo di fiducia e in cui è coinvolto ufficialmente come vittima anche lui, l'ex Presidente del Consiglio, getta un'ombra amara sul tipo di una lunga stagione. 18 anni al centro del palcoscenico, ma sempre in un clima esasperato, sempre fra mille interrogativi irrisolti. E ora una conclusione in linea col resto, come una coda avvelenata che lascia sconcertati tutti, coloro che hanno sostenuto in modo anche irrazionale la causa di Berlusconi e quelli che lo hanno osteggiato con ogni mezzo, tutti perplessi di fronte a un ultimo capitolo così imprevedibile. E intanto il centrodestra, il PDL, assomiglia sempre più a una nave disalberata che vaga senza meta e soprattutto senza validi argomenti da proporre agli italiani, ma questo vuoto non fa bene all'equilibrio democratico. In chiusura il calcio, grande vittoria della Juventus ieri. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque la Juventus vive, torna a vivere una grandissima notte europea, spazzando via i campioni d'Europa in carica del Chelsea con le reti di come sapete, Vidal, Giovinco dopo il gol di apertura di Quagliarella, 3-0 che non ammette repliche, una grande Juventus, Chelsea come detto distrutto e Juventus a un passo dalla qualificazione. Per blindarla a questo punto sarà sufficiente un pareggio nell'ultimo turno sul campo dello Shakhtar Donetsk, già qualificato. Chelsea non ancora matematicamente fuori dalla Champions League, eppure salta la panchina di Roberto Di Matteo, che con il Chelsea aveva vinto la Coppa dei Campioni, che sembrava l'uomo del destino, e che invece viene spazzato via dalla Juventus insieme a questa sconfitta. Ora ovviamente si apre il discorso della successione su una delle panchine più importanti d'Europa e tornano in ballo i soliti nomi. Si parte da Benitez fino ad arrivare al solito Guardiola. Linea di nuovo allo studio. Grazie, grazie dunque a Carlo Gente. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia con in regia Matteo Comes. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Ancora una fiction vince la serata televisiva, questa volta su Rai 1. L'ultima puntata di Questo nostro amore con Anna Valle e Neri Marcorea arriva quasi a 6 milioni di spettatori e uno share pari al 20,74%. Al secondo posto su Rai 3, Ballarò di Giovanni Floris, quasi 4 milioni e 14,67% di share. Ha preso un anno sabbatico dalla TV e si sta dedicando a un progetto importante, Serena Dandini, 3 serate a teatro a Palermo, Bologna e Genova per parlare di violenza sulle donne ferite a morte. Stavo scrivendo una specie di Spoon River, proprio il desiderio di ridare vita e racconto e colore a delle donne che sono diventate, come dire, dei numeri di statistiche, che o diventano pezzi così da vivisezionare nei talk show televisivi. Ogni città ha delle lettrici d'eccezione, che sono da Micaela Ramazzotti a Donatella Finocchiaro, da Geppi Cucciari a Lilli Gruber, proprio per spingere anche questa convenzione, che mi sarebbe piacere, si chiama No More, andate www.nomore.it e firmatela, che deve essere conosciuta, e noi cerchiamo di spingere, insomma, a mettere nell'agenda del governo come urgente questo problema. Agosto, settembre nero, cantato da Demetrio Stratos, è uno dei maggiori successi degli Area. Patrizio Fariselli, Paolo Tofani, Ares Tavolazzi tornano con un disco doppio dal titolo Area Live 2012 e una tournée nazionale. Patrizio Fariselli al microfono di Paolo Panceri. La molla è stata quella di ricominciare a suonare assieme dopo una parentesi di almeno 30 anni. E da qui intanto la consapevolezza semplice ma importante da rimarcare, che noi non abbiamo rifatto gli Area, noi siamo gli Area, che ogni tanto suonano assieme, ogni tanto no. Quindi abbiamo cominciato a suonare, questo 2 anni fa. A un certo punto abbiamo cominciato a registrarli, senza troppo impegno, devo dire, questi concerti nel corso di un anno. Alla fine della stagione abbiamo detto, toh, sarebbe bello pubblicarla sta cosa qui. E quindi non è che hai fatto un disco, ma il disco che ci segue. Lo scorso fine settimana a Sanremo la rassegna Tenco 2012, il Club Tenco sul proprio sito rende disponibili online le registrazioni delle 2 serate. 4 euro per ciascuna delle 3 parti, con artisti da Francesco De Gregori a Daniele Silvestri. Sentiamo Enrico De Angelis al microfono di Marta Cagnola. 2 file che coprono le 2 parti della serata su Udi Gatri e un altro file che invece coprirà la seconda serata che abbiamo fatto a Sanremo, che invece è una serata dedicata, appunto, sempre nello spirito nostro, a dei nuovi progetti della canzone d'autore. Per poter fare questo abbiamo dovuto chiedere una liberatoria agli artisti e ce l'hanno data tutti gratuita, e quindi questo è proprio un altro tassello, insomma, di questa possibilità che cerchiamo di chiedere a tutti in qualche modo di sovvenzionarci. Quindi adesso non sono più solo gli enti, ma ciascuno nel suo piccolo, con questi 4 euro e grazie alla disponibilità degli artisti, può contribuire a sovvenzionarci. Ed è tutto per il GR Spettacoli. Un saluto da Maria Piera Ceci, vi lascio ad Italia in controluce.